Non pagate l'IMU. Esatto. Ora, a me fa sorridere il fatto che oggi il governo chieda di dire ai cittadini dove andare a tagliare le spese. Io credo che, non devo dirlo io al professor Monti dove andare a tagliare le spese, basta che si guardi in casa. Il più grande spreco lo abbiamo a Roma nei palazzi, quindi non, quando uno Stato ha vitalizi per 219 sì. milioni di euro all'anno, questa può essere inquadrata, io lo so che può essere inquadrata in populismo, in demagogia, ma lì purtroppo c'è l'indipendenza del Parlamento, non si può intervenire, sai che... Ho capito, però non si può neanche rovinare le famiglie italiane. Ho il massimo rispetto delle istituzioni e quindi il massimo rispetto per il ministro Cancellieri, che tra l'altro è stato un ottimo prefetto anche quando è stato qua in Liguria. Il messaggio è semplice, io proprio perché porto la fascia tricolore e incontro i cittadini tutti i giorni non posso fare da esattore al governo per una tassa che rovinerà le famiglie italiane, soprattutto quelle più deboli.